Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ben ritrovati su Radio 24, ben ritrovati Ivana Di Martino. Ciao, buona domenica a tutti. Allora, nuova domenica, nuova puntata di Personal Best, sempre in versione casalinga per parlare di running e di atletica, e oggi lo facciamo con la maratoneta azzurra Catherine Bertone, benvenuta. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Come stai, Catherine? Ma sì, dai, benone, in ripresa. Tutto sommato direi che chi è sopravvissuto può essere più che fortunato. Ricordiamo infatti che tu sei, oltre che maratoneta, insomma, sei medico pediatra al pronto soccorso di Aosta, no? Esatto. Sì. Qual è la situazione lì in Val d'Aosta adesso, dove vivi? Allora, dal punto di vista pediatrico, diciamo che la situazione è sempre stata molto tranquilla, per fortuna, sì. Nel senso che ci stiamo rendendo conto che questo virus, tutto sommato, sui bambini è ancora abbastanza benevolo per ora. E ci stiamo preparando un po' per la parte autunnale, ma non sappiamo ancora nulla, siamo veramente un po' sul chi va là. Durante il lockdown, diciamo che il nostro lavoro si è ridotto moltissimo, perché comunque appunto il coronavirus era clemente con i nostri pazienti e gli altri patogeni, diciamo le altre malattie, non potevano sbizzarrirsi perché i bambini erano chiusi in casa, quindi molti meno traumi ovviamente, certo. Molte meno malattie infettive tra virgolette, e il problema diciamo poi è la parte psicologica di questi ragazzi, ma questo è un argomento che preoccupavano i pediatri e i genitori, in quanto pediatra e in quanto genitore. Ci sono stati tanti casi in Val d'Aosta di Covid? Allora, in pediatria no, e quei pochi praticamente asintomatici. Purtroppo non è stato così per gli adulti. Abbiamo avuto una strage a livello di RSA, cioè di strutture per anziani. Purtroppo sì, abbiamo pagato un carissimo prezzo. Sono stati mesi intensi, no? Anche lavorativamente parlando. Tu però sei anche una maratoneta. Come hai vissuto, non per sminuire insomma tutta la vicenda Covid, però come hai vissuto invece il periodo della corsa a 200 metri da casa? A fatica, devo dire che ancora di più mi sono resa conto dell'importanza per me che ha per me lo sport, nel senso che per me è un piacere sempre ed è una valvola di sfogo. Io la uso anche come psicoterapia sicuramente, per cui mi mancava molto, anche perché in quel periodo facevo tantissime notti, però a me serve moltissimo, una volta fatta una notte, seppur brutta, andare a correre un pelino per poi per poi dormire riposato, insomma, e questo mi permette di affrontare le problematiche sia lavorative che familiari in maniera molto più serena, e devo dire che mi mancava tantissimo. Abbiamo fatto dei surrogati, tapis piuttosto, che però non è la stessa cosa, non è uguale. Quindi com'era la tua settimana, tipo, a parte appunto il lavoro, cioè riuscivi comunque a integrare con altri tipi di allenamento, tipo le scale, insomma, tipo altri non so, tu hai giardino, hai un modo per potuto correre in cortile, hai fatto comunque qualcosa di diverso, immagino. Sì, diciamo che abbiamo un cortile, infatti avevamo montato un tapis roulant insieme ai vicini di casa, e quindi si faceva tapis, si facevano tipo stazioni, circuiti con i vicini, con i ragazzi dei vicini di casa, insomma si era creato un bellissimo ambiente, un bellissimo gruppo. E lì, come dicevamo, era per sudare un po' e poter meritarsi la doccia, insomma. Quindi infatti si facevano anche due allenamenti al giorno, cioè prima di pranzo, prima di cena, per cercare un po' di sfogarsi. Ovviamente non è la stessa cosa. Tornando un po' a quello che dicevi prima, in quel periodo un medico e runner, che è stato anche ospite qui da noi a Personal Best, mi raccontava al telefono che anche lui, insomma, quando si poteva correre sotto casa, aveva proprio bisogno di correre, perché lavorava proprio in quel periodo a Bergamo, mi diceva 12 ore al giorno, appena tornava a casa andava a correre, perché era l'unico modo per togliersi di dosso la dura giornata di lavoro in ospedale, insomma. Sono pienamente d'accordo, guarda, perché è un sistema proprio per cercare di scaricare le energie negative e riprendere un po' di fiato, insomma, ti permette proprio di star molto molto meglio con te stesso, quindi sicuramente è stato un periodo in cui ho apprezzato ancora di più la corsa. Non andavamo ben visti, però. No, assolutamente, infatti ti dirò che anche adesso preferisco andare a correre, diciamo che adesso si è molto molto migliorato l'ambiente, però gli ultimi giorni prima del lockdown qualche volta ho sentito proprio una sensazione di aggressività nei nostri confronti, per cui anche triste. C'è rimasta dentro un po' quella cosa, diciamo. Sì, anche stamattina smontando ho detto, ma corro qua davanti all'ospedale, vado in ciclabile, preferisco andare in ciclabile, sono più tranquilla, perché non si sa mai, purtroppo poco prima della chiusura mi avevano già aggredito proprio davanti al mio ospedale, persone che peraltro voglio dire, qua da Ossa siamo quattro gatti, quindi cioè, ci conoscevi. Ti conosco. Pensavo che fosse solo in Lombardia, no? Che c'era questa cosa, invece no, in tutte le regioni. No, ahimè ci siamo milanizzati per tantissime cose. Intanto abbiamo preso corona da loro. Tra l'altro solo la parte negativa, no? Purtroppo sì, perché la parte imprenditoriale la collimitassimo un po' di più, forse in certi versi sarebbe meglio, però ecco. C'era quella parte lì, anche dal punto di vista di blocchi, diciamo che hanno fatto un lockdown molto stretto, forse troppo per la Val d'Aosta, siamo veramente in paesini con quattro anime e non è la stessa cosa di Milano, insomma capisco che a Milano chiudi tutti in casa, ad Aosta può essere condotto un po' diversamente. E invece come si concilia in una situazione come questa il difficile lavoro di medico e il desiderio magari di andare alle Olimpiadi? Niente, si stringono i denti, infatti ho detto non devo mollare, ho cercato proprio di mantenere fisicamente il più possibile un'efficienza, quindi anche al pomeriggio si faceva ginnastica, addominali eccetera eccetera per cercare di mantenere la carrozzeria, mi rendo conto che stiamo arrivando a mezzo secolo di età e quindi diventa sempre più difficile. Anzi, però c'è stato un momento in cui vedevi insomma che il virus prendeva piedi, però magari c'era anche ancora il desiderio e la possibilità ancora di andare alle Olimpiadi magari, no? Esatto, infatti quel periodo lì ero un pelino più tra virgolette stressata, nel senso che cercavo, perché io preparavo la maratona di Hannover che sarebbe dovuto disputare il 26 di aprile e quindi avevo un po' l'ansia, nel senso che dicevo io devo mantenere alti i chilometri ma non posso più correre, e effettivamente è stato un momento un pelino di tensione tra virgolette, poi si vedrà quel che si può fare. Nel momento in cui hanno posticipato le Olimpiadi forse mi sono, anzi sicuramente mi sono tranquillizzata un po', ho detto vabbè a questo punto siamo tutti nella stessa barca e vedremo quello che sarà, insomma. Esatto. E il 4 cosa hai fatto quando hanno riaperto diciamo i cancelli? Lasciamo perdere, mi sono ammazzata. Ah sì? Ho fatto tre allenamenti perché smontavo dalla notte ennesima, e però vuoi non andare a correre, quindi ho corso al mattino. A pranzo mi hanno detto possiamo mica stare in casa a mangiare, siamo andati a fare una lunghissima passeggiata con la famiglia, e alla sera avevamo ancora un corso online perché ormai eravamo lanciati, tre allenamenti. Alle 8 ho detto forse è meglio se vado a dormire, ecco. Perché l'ho stravolta. Forse diciamo, altro che iniziare con calma e progressivamente, assolutamente no. Caterina, c'è più eroismo nella maratona o nel fare il medico? Beh, sicuramente nel fare il medico, cioè no, non allora nel fare il medico non è un, non so, non direi che c'è eroismo, c'è passione in tutte e due. Nel senso che ho la passione per tutti e due i lavori, per cui quando fai una cosa che ti piace non è un sacrificio, sicuramente. È vero che sicuramente i dispiaceri sul lavoro sono immensamente, infinitamente più gravi, insomma, però le soddisfazioni anche molto belle, insomma, quindi diciamo che non che parlare di eroismo. E ascolta, come fai adesso a mantenere comunque alta la motivazione? Cioè hai ripreso gli allenamenti normali, hai comunque una tua tabella di allenamento per, tra virgolette, che cosa? Cosa stai preparando? Perché non si capisce bene quali gare poi ci saranno, non ci saranno. Come fai a tenere comunque alta la motivazione? Stranamente la motivazione c'è, molto alta, quello sì. Mi sono detta nella mia testa che probabilmente preparo una gara corta, tipo un 5.000, ma solo per darmi un obiettivo, ma non faccio fatica a trovare diciamo la motivazione per riuscire ad andare assolutamente, anzi spesso devo dire ma dovrei fare un giorno di riposo e rimando sempre al giorno dopo. Per cui no, direi che, e poi dico sì, secondo me adesso bisogna proprio aspettare un attimo, ma le cose andranno meglio. Effettivamente la maratona risulta essere una delle gare che forse riprenderemo il più tardi di tutte, perché ovviamente fa molto assembramento, cioè se penso alla partenza di Valencia di dicembre eravamo veramente 50.000 che sembravano delle sardine, insomma, giustamente, perché eravamo pigiati su una strada di partenza, e il bello e il brutto della maratona, insomma, per cui... Quanto è difficile infatti da medico e da maratoneta immaginare di tornare sulle gare su strada come molto prima, difficile, insomma, no? Sì, sì. Però vedo altri obiettivi, nel senso dico a questo punto se inizieranno le corse, le gare in montagna faremo quelle e cambieremo lungo il percorso, però la motivazione a riprendere, a trovare, di ritrovare la forma fisica c'è, insomma. Infatti mi chiedo fino a quando, finché c'è, vado avanti. Infatti tu hai anche un passato, no, in corsa in montagna, no? La corsa in montagna ha fissato qualche data per le prossime gare, già a partire dai prossimi mesi, quantomeno insomma possiamo dire un segnale di ottimismo. Esatto, no? Infatti... Poi si vedrà in che modalità si correrà, però quantomeno... Infatti spero proprio... Mettiamo dei palli. Io diciamo che sono entrata in nazionale attraverso la porta della corsa in montagna e quindi è stata una bellissima parentesi, perché no, ricominciare da quello. Effettivamente è molto più facile da gestire, perché assembramento non si fa in montagna, cioè per quanto ci sia gente... boh, saranno 500 persone, insomma, sul percorso, non di più, per cui non sono numeri assolutamente gestibili. Vediamo, nel senso che intanto appunto cerco di fare una preparazione a tutto tondo, non sto facendo grandissimi volumi perché non ha senso, okay. Cerco di conservare le articolazioni, che semmai ci fossero altri, altre possibilità se non ancora fresche, insomma. E la tua ultima gara è stata il campionato italiano di mezza maratona a Verona, no? 16 febbraio, o sbaglio? No, lì io in realtà non sono andata, ho parlato con delle ragazze che erano andate, la mia ultima gara, diciamo ultima partenza, è stata la maratona di Valencia. Dicembre, che me si è conclusa con un ritiro perché ho avuto un infortunio, e diciamo che l'ultima gara conclusa bene è stata a fine ottobre. E poi dopo stavo preparando Valencia, appunto ho avuto questo intoppo e stavo quindi ripartendo per la maratona primaverile, che avrebbe dovuto essere un tentativo per fare il minimo delle Olimpiadi, per le Olimpiadi. Ah, quindi c'è un lungo vuoto di gare, diciamo. Sì, diciamo che dalla mia parte sono abbastanza abituata a gareggiare poco, nel senso che avendo con gli impegni di lavoro le gare non sono proprio il mio pane, nel senso che ne farò 10-12 all'anno, non tantissime, per cui la motivazione rimane alta perché sono abituata ad allenarmi senza avere obiettivi di gare. E certo è che l'emozione di rimettere il pettorale sarà grandissima. Questa stamattina ne ho incontrato gli amici e ho detto sarà una festa quando faremo la prima gara. Infatti a tutti noi manca il fatto della sensazione proprio di rimettere il pettorale e stare tutti assieme e correre per uno scopo. Esatto. E cosa pensi invece delle gare virtuali che si stanno correndo in queste settimane? Non mi affascino, perché io sono una poco tecnologica, diciamo che secondo me la tecnologia è una cosa molto molto utile e ci sta aiutando moltissimo in questo periodo, devo già usarla per lavoro, nel senso che ormai siamo tutti su online anche soltanto per vedere i pazienti, quando si può ovviamente, fare anche gare virtuali no, piuttosto faccio gara con me stessa e basta, non riesco proprio a mettermi lì, pubblicare i risultati, non ci arrivo ancora, magari tra qualche anno. Ascolta, ma tu fai tante salite quindi durante la settimana? Fai tanti lavori in salita? Tendenzialmente ne faccio sicuramente uno, e poi diciamo che quando vado a fare la corsetta rigenerante spesso è un collinare, perché da casa mia è tutto un su e giù, per cui uno sicuro e uno e mezzo via, nel senso, poi se preparo gare di corsa in montagna a quel punto mi sbizzarrisco, perché qua dietro casa mia sono tutte salite, quindi non c'è alternativa, diciamo. Esatto, cioè devo prendere la macchina per andare a fare la pianura, non tanti, ma al contrario. Esatto. E che programmi avevi per questo 2020? Olimpiadi a parte, diciamo. Olimpiadi a parte, poi era tutto un divenire, certo, mi piacerebbe continuare a correre e vediamo, nel senso, sì, l'obiettivo era riuscire a strappare il minimo, cosa non facile, e poi continuare a fare gare, insomma, non c'erano obiettivi, diciamo, precisi. Nel 2019 mi sono regalata due bellissimi personali, soprattutto quello sulla mezza, che è stato un risultato inaspettato, e molto, molto, ho tolto un minuto al personale. Per cui ero molto contenta e mi sarebbe piaciuto ovviamente farla altrettanto sulla maratona, ma non è detto che sia per subito, insomma. Cioè, tu sei incredibile perché passano gli anni e migliori. Cioè, vai un po' al contrario rispetto, insomma. Me lo ripeto anch'io, perché infatti poi sono rimasta un po', diciamo, bruciata da questo infortunio subito prima di Valencia, però mi dico, vabbè dai, però hai fatto persone sulla mezza, quindi su questo mi faccio forza, insomma. Adesso è completamente passato l'infortunio? Sì, infatti diciamo che anche la quarantena ho cercato di potenziare le parti più deboli e di puntare su quello, ho fatto proprio un grosso lavoro di postura, tutto a casa, però l'ho fatto, insomma, quindi vedi, quindi ci sono dei lati positivi di questa quarantena sicuramente. Guarda, assolutamente, ma sono tanti, non oso neanche sbandierarli perché penso purtroppo alle vittime di questa pandemia, sono tante, però abbiamo cercato di far fronte a questa situazione cercando di cogliere il positivo, insomma, quindi intanto lo stare in famiglia e goderci le figlie, che è stata una cosa molto bella, insomma. Per me era quasi più, a parte la corsa a parte, era quasi più riposante, perché tornavo a casa, l'avevo a casa, era tutto più tranquillo, invece normalmente torni a casa, devi andare a prendere, fare, disfare, appuntare. Invece sembrava un'eterna vacanza, allora erano a casa, avevo fatto dei bei ritmi, ovviamente anche loro avevano allenamenti programmati bigiornalieri, perché non si può lasciare poltrire, e per cui quello sicuramente è stato un bellissimo, abbiamo ritrovato un po' lo stare insieme in famiglia, che Secondo me tante persone hanno ritrovato. Infatti, sì, infatti. Assolutamente. Anch'io, una famiglia numerosa, siamo in cinque. E, c'erano dei momenti veramente molto belli. Tra l'altro hai il nome della mia terza figlia. Ah, veramente? Caterina. Dai. Sì. Ah. Ecco, si sono trovate. Esatto. Io amo questo nome, bellissimo, molto dolce. Era il nome di mia nonna e poi insomma, è stato trasformato. Bellissimo. Siamo quasi in chiusura, Caterina. Ti volevo chiedere, ma normalmente, in una condizione normale, diciamo, come riesci a conciliare tutto tra il lavoro, la famiglia e gli allenamenti, insomma, anche perché poi tu corri ad altissimo livello? E diciamo che è questione di organizzazione, cioè tutta la famiglia partecipa agli impegni di tutti, insomma, quindi ci si programma per tutti e noi siamo in cinque, diciamo che il figlio grande ormai abita da solo, e ci si programma tutti in maniera certosina, di solito la domenica sera, e si cerca un po' di fare in modo che tutti possano seguire i loro impegni. Io cerco di fare tante notti in modo tale che poi al mattino riesco o a dormire o ad allenarmi in base a come è andata la notte, e poi dalle 4 in poi sono disponibile a casa, insomma. Quindi dalle 4 quando escono i ragazzi da scuola. Per te la maratona è uno sport individuale che diventa uno sport, insomma, di squadra? Sì, c'è una squadra, assolutamente c'è una squadra dietro, una bellissima squadra. E Caterina, in chiusura, quanto è difficile andare a caccia di un'Olimpiade a 48 anni, oltretutto conciliando allenamento appunto e lavoro? Ma è difficile, ma è anche un modo per stare un po' per mantenersi in forma, diciamo che cerco di viverla proprio come fosse un gioco, quindi è un po' un mettersi ancora in gioco sia per me che per la mia famiglia, vedere di provarci fino alla fine, poi se viene bene, se non verrà pazienza. Infatti il minimo richiesto è 2:29:30, no? Esatto, sì. Credi sia la tua portata? Ma diciamo che in autunno, con i tempi che facevo sugli allenamenti, poteva essere assolutamente la mia portata. Bisogna vedere effettivamente, scherzi a parte, se col passare del tempo riesco a mantenere quei ritmi lì. Vediamo, non so dirlo. Sì, ce la farai sicuramente. Grazie mille a Caterina Bertone. Grazie a voi e buon lavoro. E grazie perché la radio è stato un utilissimo strumento durante questo periodo, ci faceva moltissima compagnia. Ah, è vero, perché nota margine, diciamo, in chiusura, voi non avete la televisione. Esatto. Esatto, sì. Per cui la l'informazione eravamo sì, solo sì, noi. Sì, esatto, però ci aiutava tantissimo, perché anche a tavola si discutevano poi le notizie sentite dalla radio. Bello. Bello. Grazie ancora. Grazie a voi e buon lavoro, Grazie. E anche per oggi è tutto, noi ci fermiamo qui, ci risentiamo domenica prossima sempre alle 6:30, alle 16:15, poi quando volete ci trovate in podcast. Buona giornata. Buona domenica a tutti. Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili su radio24.it.